fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi super carichi qui dentro nel confessionale di Grande Sorella abbiamo Nicola. Nicola e Patrick. E Patrick, ciao ragazzi. Allora, io vedo molti paparazzi da fuori, posso anche dirlo, perché loro non possono vederli, ma noi li vediamo. Sì, siamo aspettative. Paparazzati. Ma cosa festeggiate? Sei tu lo sposo, scommetto? Sono lo sposo. Sono lo sposo, sei lo sposo. Quando è la data del matrimonio, ti ricordi? Fortunatamente in là, 6 in ottobre. Là. Ah, c'hai tempo ancora per pensare un bel po'. Comoda. Sì, abbastanza. È una giornata fresca quel giorno lì, secondo me, eh? Anche secondo me, sì. È fatto bene, perché tutti quelli che sono qui dentro si sposano in estate, ma io non capisco col caldo che fa. Idea, con la camicia e la maglietta di sotto, veramente... Come si fa? È una caldo di stile, no. Non si usa, non è si fa. È un bagno di sudore. Bisogna. No, i mesi ideali sono da metà settembre in poi, secondo me. Esatto, cioè, il benessere prima di tutto. Cioè. Sì, non deve essere uno stress il matrimonio. E fortunatamente non mi fanno sposare nel divano, perché altrimenti... l'avrei fatto. La mia futura moglie si è opposta e quindi devo ripiegare su una cerimonia civile dove faremo la festa. Quindi almeno unica location è da festeggiare questa esperienza, scusami. Beh, sappi che ci sono molti amici che non sarebbero venuti in una cerimonia non civile, quindi direi che ben venga la cerimonia. Venivano solo... Vi amo tantissimo per questo. Viva la civiltà. Venivano solo a mangiare. Viva la civiltà. Da dove venite, ragazzi? Da Vicenza. Asiago. Da Asiago. Vicenza solo per comodità, o Padova per comodità. Il cuore è da Asiago. Asiago, dove fanno il formaggio. Il famoso formaggio. Formaggio, le marmellate, i funghi. Siete esperti allora voi di queste cose. Avete il buon palato. Ci sappiamo fare. Ho capito. Ma stasera avete incontrato qualche gnocca? Qualcuna sì, qualcuna si è liquonato, qualcuna no, insomma, comunque... Tu hai limonato? No, devo ammettere, no, sono troppo timido, troppo innamorato della mia fidanzata. Non si direbbe che sei timido. Colpa di gin tonic. I gin tonic fanno parlare l'uomo timido sposo. Bravo, viva la sincerità. Viva la sincerità, ragazzi. E avete incontrato anche i platinette, cioè ci sono vari platinette, tutte bionde stasera. Abbiamo incontrato parecchie misure abbondanti. Sì. Anche quelle ho visto io, sì. Anche quelle. Ma comunque anche loro molto moderate. Nel loro modo piccolo di comportarsi, ecco, sì. Diciamo che qui non ci manca niente, non ci facciamo mancare niente. Siamo tutti educati, nonostante abbiamo animali d'apparenza, esseri umani strani, di tutto e di più, trasformamenti vari, ma nonostante tutto l'educazione ci manteniamo tutto, adeguati assolutamente, sì. Anche dopo i drink ordine, ma soprattutto dopo i drink, più divertimento, più educazione, sia mai mancare di rispetto. Assolutamente no. E quanti ne eravate, ragazzi, al tavolo? In otto, sì. No. E dove sono andate a finire tutti? Sono quelli, sono tutti quelli davanti che ti facevano erano i paparazzi. Io quando sono qui dentro, ognuno che entra ha i paparazzi fuori che registrano e fanno con le foto. Sempre i soliti. Sempre. E vuoi fare una dedica prima di uscire allo sposo? Beh, assolutamente sì. Allora gli dedichiamo una serata di questo tipo, innanzitutto con gli amici, ma soprattutto con una libertà di fare che non avrà più. Viva gli sposi. Dopo ottobre non avrà più la libertà di festeggiare. Ma ragazzi, io ho consigliato anche prima alle ragazze, voi fate finta che qualcun altro si sposa e fate un altro addio così. E infatti ne abbiamo uno tra ma lui è, questo è il primo, ma noi ne abbiamo due organizzati. Vabbè, allora c'è ancora modo di festeggiare. Il secondo è Asiago, per l'appunto, e sarà non fatto... sarai neanche il protagonista, quindi ciao, ha voglia di festeggiare ancora meglio. Saranno le mucche le protagoniste, che secondo te ci saremo in alta quota. Va bene ragazzi, vi saluto, è stato un piacere anche per noi, alla prossima. Ciao, ciao ragazzi, ciao.